sono sempre gli stessi, Claudia. Sì, sì, c'è un passaggio diretto, ma praticamente cosa è successo? Abbiamo deciso di gestire solo la parte del potabile, quindi le acque bianche, quello che esce dai nostri rubinetti, per capirci. E fare una gara internazionale dove hanno partecipato grandissime società, però c'è una Germania di tutti, non avevo dubbi, per gestire i reflui, quindi i depuratori, siccome i depuratori sono tanti, soprattutto qua a Sassero, pensate ci sia solo Canica, perché c'è il depuratore. No, ho ottenuto la qualità dei diritti, cazzo, dopo si lamenta perché l'uomo se ne scappa, io credo si dà una discussione aggressiva, vabbè, mi la roba se ne fuggi. Ma io te l'ho veramente ragione, ma allora sei una buffonese, sì, ma le tali diritti mi senza che un butto, se io ti posso dare la mano te la rompo, per carità di Dio, ti ho fittato e andavè, hai cucinato e andavè, ma capita, se vai a fare un caffè e tu non lo fai, che cazzo vuoi allora, vai, se c'è la notizia vai. Caro mio, a fare